C'era una volta a Roma un negozio di dischi dove tutti gli appassionati di musica andavano. Disfunzioni musicali. Siete pronti per questo viaggio indietro nel tempo? Andiamo. Aprile, ciao a tutti e a tutti, sono le 20 e questa è Note Cose Città. 20 e 10, mister Precisino, buonasera Fabio. 20 e 13. 20 e 13. Proprio, buonasera Ale, ciao a tutte, ciao a tutti. E allora, prima di cominciare, ricordiamo intanto i nostri contatti, lo 06 49 17 50 e poi il sito www.ondarossa.info. È in corso la campagna di radioabbonamento per sostenere Radio Onda Rossa, mi raccomando. Allora Fabio, oggi io direi che, come si dice, ti sblocco un ricordo oggi nella puntata odierna. In realtà il ricordo si è sbloccato lavorandoci, più di un ricordo, lavorando a questa puntata. Oggi non mi hai fatto la domanda cronica dove andiamo, me la faccio da solo e mi rispondo da solo. Andiamo da dietro proprio, noi siamo a Via dei Volsci, lo sapete. Andiamo a Via degli Etruschi 4, se non vado errato, dove ora trovate una libreria, ma dove fino al 2007, fino al febbraio del 2007... avreste trovato un grandissimo, un mitico negozio di dischi, Disfunzioni Musicali, l'avrete già capito, un negozio che certamente è stato un pezzo importante di questo quartiere di San Lorenzo, un pezzo importante di Roma, è stato probabilmente il miglior negozio di dischi di Roma e tra i migliori e più importanti negozi di dischi d'Italia. Quindi oggi con noi abbiamo un ospite, Dario, lo presentiamo dopo e lo presenterei tu, Ale. Dario ha realizzato ha girato un documentario su Disfunzioni Musicali, un documentario che trovate in rete, ma appunto ne parliamo dopo, non vi anticipo troppo. Per chi non l'avesse ancora visto, ecco, il consiglio è, dopo questa puntata, dopo le nostre chiacchiere, la nostra musica, andatevi a guardare questo documentario. La puntata è pregna, quindi io vado abbastanza veloce, quindi oggi vogliamo qui ripercorrere a grandi linee la storia del negozio, ma più che la storia del negozio, la storia della comunità che si è creata intorno a questo negozio, una comunità di appassionati di musica ovviamente. E innanzitutto io ho detto andiamo a Via degli Etruschi, in realtà il negozio non apre a Via degli Etruschi, apre a Via dei Falisci, giusto? Sì, Via dei Falisci, apre nel 1981. Il negozio, io non, per ragioni biografiche non ho fatto in tempo ad andarci, ad entrarci, ma viene descritto come un negozio piccolo, lungo e stretto, insomma un negozio che non era proprio il massimo in quanto a comodità, ma un negozio che evidentemente ha funzionato, perché poi da lì a poco appunto si sarebbero trasferiti. Noi però adesso non parliamo troppo, ascoltiamoci anche un po' di musica. L'81, ho detto, l'anno di fondazione del negozio, e l'81 immagino che un Fabio, un Alessandro, un Dario in quell'anno, in quel 1981, certo non andavano a cercare da Disfunzioni Musicali il disco dei Pooh o neanche il disco dei Queen, probabilmente andavano a cercare qualcosa di un po' più difficile da trovare nei grandi negozi di Roma, che all'epoca erano soprattutto, credo, Ricordi, Messaggerie Musicali, questi erano i negozi più frequentati. Il disco che abbiamo scelto per cominciare questa puntata è un disco, è un singolo storico, si chiama Cerimonie, il gruppo sono The New Order, è l'ultima canzone di fatto dei Joy Division, la prima dei New Order. Ci sembra un bel modo di cominciare questa puntata, il pezzo si descrive da solo, quindi intanto ce lo ascoltiamo e poi torniamo con il nostro ospite in studio. We'll be right back. E dopo New Order è arrivato il momento di presentare il nostro ospite, appunto l'ha anticipato Fabio, lui si chiama Dario, il canale YouTube è Radio Dario, dove trovate anche il video. Ciao Dario. Ciao, buonasera. Aspetta che ti alzo un pochino. Ari, saluta. Ciao, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Niente, grazie a te soprattutto. Senti, la prima domanda è, innanzitutto, ma è meglio video, documentario, film? Ma oddio, guarda, io ho fatto questa cosa senza nessuna pretesa di essere il nuovo Stanley Kubrick, quindi film proprio eviterei. Video, certo, chiaro che c'ha un'impostazione documentarista, però insomma. Un documentario, quindi. Cioè lui ha fatto tutto questo per la battuta. Esattamente, assolutamente sì, lo confermo. Vabbè, senti, perché intanto un film su disfunzioni musicali, un documentario su disfunzioni musicali? Ma guarda, è stato veramente, è stata una cosa, un omaggio mio personale a cui tenevo molto. Era per me è stata una sorpresa quando ho cercato, ma per mia curiosità negli anni, qualcosa su disfunzioni su il famoso internet, dove si dice che si trova tutto, no? Sul deep web. Sul web, dove si trova tutto, e invece si trova tutto se qualcuno ce lo mette. In realtà c'era poco. C'era pochissimo, a livello video zero proprio, qualche foto, qualche blog fatto bene, qualche blog amatoriale, però ecco, era una grandissima sorpresa da parte mia che non ci fosse un video o qualcosa che raccontasse quel posto che è durato per oltre 25 anni e che ha rappresentato tantissimo per me personalmente, come poi anche per tanti tutti altri. Noi. E poi tra l'altro fammi aggiungere che e chi frequentava disfunzioni musicali, io parlo quantomeno dalla metà degli anni 90, e indirettamente lo conosce Dario, perché per me e per Fabio anche abbiamo scoperto, certo, faceva parte di un tour, perché Dario aveva un negozio che è stato un altro negozio storico a San Lorenzo, dove si andava dopo disfunzioni musicali ad affittare, a noleggiare un VHS. E dopo lo stai dicendo tu. Un DVD. Magari uno passava prima a Videobuco. Che è Videobuco? Che è Videobuco, per cui Dario era all'epoca il proprietario anche dei Videobuco, insieme a un'altra persona, no? Sì, esattamente, insieme a Daniele che saluto. Ma io ti devo, guarda, rivelare questo aneddoto. Quando decisi di aprire Videobuco, in realtà l'intenzione sin dall'inizio era quella di fare un posto che non fosse soltanto la videoteca di quartiere, ma bensì una videoteca che lavorasse su tutta la città. E quindi mi chiedevo quale zona di Roma sarebbe adatta per far sì che la gente ci viene apposta da tutta la città per venire a prendere i film. E mi risposi da solo dicendo: se io e tutti i miei amici andiamo da disfunzioni musicali, quindi andiamo a San Lorenzo per comprare i dischi, allora forse magari la gente verrà anche per a i film. Film, chiaro. E infatti così e è stato. Così andò. Ma quando è aperto Videobuco? L'anno? Nell'anno del Signore 1995. Ok, quindi dopo Cristo. Okay. Un po' ho perso la cognizione del tempo, invece noi torniamo indietro di 9 anni, lo dicevamo prima, disfunzioni musicali apre un piccolo buco, un piccolo negozietto a Via dei Falisci, poi gli affari evidentemente vanno bene, la comunità che si crea, si comincia a crearsi quella comunità che caratterizzerà poi gli oltre 25 anni di storia del negozio, e a un certo punto i quattro soci fondatori che non abbiamo ancora nominato, che sono, aiutami Dario, sono Dino, che purtroppo non c'è più, Domenico, Gianni e Alberto. E Alberto. Loro quattro, quindi, per i motivi che spiegavo poco fa, decidono di aprire un negozio. Insomma, lanciano il cuore oltre l'ostacolo, decidono di aprire un negozio più grande, lo aprono a Via degli Etruschi 4, appunto. Poi il negozio si allargherà ulteriormente, però adesso noi siamo fermi al 1986. Disfunzioni, con questo trasferimento, è un nome, un negozio di dischi sempre più famoso. E un negozio che non sarà soltanto famoso a Roma, cioè nella ricerca in rete che ho fatto anch'io in questi giorni per preparare questa puntata, grazie al tuo documentario, nei commenti al tuo documentario, ma anche nei blog, in altri canali, insomma, sì, scartabellando altre fonti, ho visto che molti dicono: io non ero di Roma, io adesso sì abito a Roma, ma io venivo dal paese, venivo da qui, insomma, non dico da tutto il centro Italia, ma insomma molte persone si imbarcavano il sabato mattina per raggiungere. Vedi, è successa esattamente la stessa cosa, no? Se con Videobuco. Videobuco si chiama Videobuco perché all'inizio era un buco, cioè i primi 2 anni noi stavamo a Via Tiburtina a fianco al bar, ed erano, non mi ricordo neanche, 20 metri quadri, quindi l'unico nome che potevamo dare senza grosse pretese era Video Buco. Poi dopo 2 anni ci siamo, e tra l'altro stavamo davanti a Via dei Falisci, quindi dove aveva originariamente aperto Disfunzioni. Dopo 2 anni si liberò il negozio più grande, ci siamo spostati nel 97 e eravamo in 52 metri quadri, però ci siamo tenuti il nome Video Buco. Siamo stati meno furbi di Disfunzioni, ci davamo da un nome più neutro. Comunque vabbè, siamo nell'86, come abbiamo fatto i giochettoni prima, come primo pezzo per... Che è uscito nell'86? No, insomma, l'81 abbiamo scelto New York per i motivi che abbiamo spiegato precedentemente. Nell'86 è anche stato un altro grande anno, forse non come l'81, però tra i vari gruppi che abbiamo, insieme a Alessandro, che abbiamo insomma valutato, diciamo così, il gruppo che ci sembrava il più adatto per rappresentare Disfunzione sono i Peel. L'album si chiama Album, appunto. Il motivo non è tanto il disco, che è un gran disco, o il gruppo, che è un grandissimo gruppo, ma è anche proprio la storia che ci tira questo album e la formazione che John Lydon, che l'ex Johnny Rotten, mette insieme. Cioè, oltre lui che è l'icona del punk, forse se c'è un'icona sola, almeno in quegli anni sarebbe stato lui la persona scelta. Oltre quello c'è Steve Vai, chitarrista, diciamo, metal, un virtuoso, c'è Ginger Baker, Tony Williams, due enormi batteristi, c'è Sakamoto alle tastiere. Insomma, ha messo insieme talmente tante influenze che a noi in qualche modo hanno ricordato Disfunzioni, le varie sfaccettature, i gusti diversi, i commessi, ne parleremo, la musica che ascoltavi, insomma, tutto questo per dire che adesso ci ascoltiamo un pezzo dei Peel, e lo dico alla romana, quindi i Peel, come se stanno i Rem, come stanno gli U2, erano i Peel e io al negozio chiedevo i Peel. La canzone si chiama Rise, però abbiamo scelto la versione il 12 pollici editata Peel Rise. We'll be right back. E noi sulla note dei PIL cominciamo ad addentrarci poi all'interno di questo negozio. Come ha detto Fabio, Disfunzioni non era solo un negozio di dischi, era poi un punto d'incontro. Io ricordo per esempio la bacheca, dove si andava ad appendere gli annunci: cerco, che ne so, batterista per cover improponibili a volte. E c'era il famoso Montacarichi, che tu racconti benissimo, anzi lo fai raccontare da chi lo utilizzava, che univa il magazzino che era al piano di sotto, che portava in tutti e due i sensi CD che venivi, CD, dischi che venivano ordinati o restituiti. E poi c'era anche queste un po' scenette quasi di folklore, mi viene da dire. Vorrei che la raccontassi tu, che la racconti, se non sbaglio sei proprio tu a raccontarla all'inizio, sulla vendita dell'usato, perché Disfunzioni Musicali faceva anche la vendita di dischi e di CD usati. Ma andavano... è stata una chiave del successo loro. Assolutamente sì. Permetteva a noi poveri andare lì, restituire quello che non sentivamo più, trofeo. E però c'era tutto un piccolo rituale, no Dario? Ma esatto, certo, è proprio così. All'epoca eravamo studenti, eravamo ragazzini, quindi soldi ce n'erano pochissimi. Allora la possibilità di portare indietro dei dischi che un po' erano, come dire, l'agnello sacrificale, cioè nel senso che per poter comprare un disco in più magari si sacrificavano delle cose che magari uno nel frattempo si era già passato su cassetta, e oppure magari era quel disco che l'avevi preso ma non eri, cioè, proprio. Io negli anni qualche errore grave l'ho fatto, eh? Ma guarda, abbiamo fatto tutti, qualche errore grave l'ho fatto, l'abbiamo fatto tutti, tutti quanti, ma lasciamo perdere, vabbè. Insomma, non ti dico neanche che succedeva. Io entravo, portavo questi dischi, puntavo e... il commesso che era addetto. C'era l'angolino, no, dell'usato, esatto, da una parte, si andava lì e questa persona un po'... Insomma, a me mette un po' di timore, perché era una persona che non decifravo, non parlava, quindi non c'era proprio la possibilità di dialogare. In più mettici appunto la timidezza di quando uno è un po' ragazzino, e quindi gli si davano questi dischi e lui li scrutava, li analizzava, faceva due colonne che si creavano piano piano sul bancone, e tu stavi lì che aspettavi sperando che la colonna più alta fosse quella dei dischi che lui prendeva. Ma non lo sapevi fino all'ultimo, fino a che lui non prendeva un fogliettino di carta, ci scriveva sopra una cifra, te la allungava e ti dava indietro, ti restituiva la colonna, sì, la colonna di quelli che non prendeva, e ti dava sto buono e ti guardava a dire va bene. E tu accettavi. Io tra l'altro nella vita ho rivenduto il buono in cambio di contanti, Questo non so se vi è successo. E c'è anche un mio amico che quando ha saputo che facevamo questa puntata mi ha detto: allora gli devi dire a quelle delle Disfunzioni, se ci stanno, che io effettivamente, io questa cosa me la ricordo, lui aveva il CD con la colonna sonora del film Dick Tracy, quello con Madonna e Sean Penn, credo per circa 2 anni ha provato a consegnarla, non gliel'hanno mai presa, e te credo, e ancora ce l'ha a casa, non so perché ce l'avesse. Poi tra l'altro non so chi è il tuo amico, ma lo ritengo anche un po' giusto. Anche un po' giusto. No, una cosa che non abbiamo detto adesso, che poi magari ci dimentichiamo parlando, andando avanti con i ricordi e soprattutto con la musica, che Disfunzioni, lo stiamo dicendo, ovviamente non dedichiamo una trasmissione musicale, una puntata di Note Cose Città a un negozio in quanto negozio punto e basta. Era la comunità che si creava intorno al negozio, di noi appassionati, erano i gruppi che sono nati da quella bacheca. Il tuo foglietto non ha mai preso nessuno, Ale, però insomma altri gruppi sono nati così. Ma poi i quattro soci, cioè Disfunzioni, era anche, si sono lanciati anche in altre imprese, sono nate 3 etichette e una, e anche una società di import-export. La società di import-export era l'Helter Skelter, che poi di fatto è diventata la Goodfellas di oggi. E mentre invece le 3 etichette, nominiamole, sono Mantra, High Rise e Viva. Ok, e poi tra l'altro succedeva anche che questi gruppi che si formavano andavano a Disfunzioni a portare i loro demo tape, no? Che veniva venduto a pochi soldi per farsi un nome. E questo succedeva anche agli Onda Rossa Posse, che trasmettevano ed erano nati proprio da queste frequenze, che oltre durante i concerti che portarono proprio a Disfunzioni tutti i vari demo tape. Però è chiaro che chi forma questa comunità, poi il grande merito era, diciamo, delle persone che ci lavoravano, e tu appunto dai voce a loro per farti raccontare il negozio. Noi il prossimo passaggio lo dedichiamo ad uno di questi commessi, che se non sbaglio nel documentario appare soltanto una volta, no, in una foto, non è stato uno che c'era dall'inizio fino alla fine, ha lavorato qualche anno, ho cercato qualche informazione, lui è Ice One, uno dei più grandi producer e beatmaker italiani. Sì, probabilmente seconda metà degli anni 90. La seconda metà degli anni 90. Io ho trovato un'intervista, gli fanno alcune domande, a un certo punto gli chiedono quali sono i 5 migliori beat che ha composto. Lui fa l'elenco e tra questi c'è Scienza WH dall'omonimo album del Fomento, di cui all'epoca poi faceva parte, e dice segna una svolta perché in quel periodo lavoravo in un negozio di dischi, appunto Disfunzioni, nel quale mi arrivavano input incredibili. Ogni collega di lavoro era specializzato in uno o più generi e ognuno era un grande esperto di quello che amava, quindi ho avuto la possibilità di fare un brainstorming continuo su tutta la musica pubblicata dagli albori dell'incisione sonora. In particolar modo grazie a Sante Calvaresi, che era una delle persone che lavoravano lì, un mio collega, e conobbi la musica lounge, un genere dove faceva capolino la prima elettronica e dove l'espressività proprio delle canzoni spesso strumentali serviva a creare un'atmosfera in parti spesso casalinghe. Ebbene, in questo pezzo la sfida fu quella di usare il sample di un pezzo lounge e renderlo in qualcosa di molto hardcore. Il risultato è questo, Scienza WH. MC per MC, il meglio sta qui. E se non sono il meglio, allora è meglio che stai sveglio. E quando c'ho il microfono, gli scrausi non lo prendono, si confondono tra gli altri, si nascondono. Caccio il ghigno quando me la regno, stranisco il fan più di tutti come quando me la sogno. Bella signora, la doppia H ed un'altra H ancora. E non c'è modo di capisse se venisse incontro. Ice One non perdona, segna la sua zona. Fratello col fratello, assassino con l'infame. Me metto a sede, quando richiede, quando ritiene che tempo, quando che tutto è già pronto. Ice One riparta parti dall'alba fino al tramonto. E la notte intera, solo con roba massiccia. Miccia nella mia mano, bomba nella testa. Flow come il guasta festa, testa guasta ma non basta per fermare. Testa giusta per creare ciò che è stato concepito per il mio pubblico. Musica per un palato trucido e luce per il tuo equilibrio cosmico. Mille cicche intorno a me delimitano la mia scena. Trattasi di roba oscena, no, trattasi di roba che ti scatena. Alcol sopra il fuoco brucerà in eterno. Nulla nel senso di infinito nelle pagine del mio quaderno. Storie che scrivo, storie che scrivo. Che storie le tue, manco di striscio con le mie. Se tu te piagni addosso, io rido a più non posso. Se tu stai spento, io resto acceso per il contatto. Dato di fatto che quello che è in me è quello che dorme in te. Ed è quello che mi rende consapevole che la mia scienza è doppio H e non la fermerai. Pace per la scena, per gli scrausi bumbidi. Con metodo scientifico, quelli del colle sorpassano. Quando partono portano il culto del rap sul microfono rapido. Come mi sto muovendo, l'energia che prendo, che spendo. Mentre qui sta bruciando, sto andando. Rime, rime nel giusto, un paio che fanno al caso. Andiamo di sotto e gli mettiamo il pezzo sotto il naso. Chiuso, salto in mezzo, allora li devasto. Dovranno trovare me se cercheranno il guasto in questo posto buio. La vita scorre tranquillamente in apparenza. Io scamo l'inghippo ed esco dal rischio grazie alla mia scienza. Mentre la mia gente è già in partenza, io sono qui ieri come oggi, rime come raggi a portare luce in questa stanza. Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Tre componenti che scavalcano qualunque cliché. Così com'è, così come so, così com'ero rimasto. Incasso colpi e li trasformo nel rap con l'inchiostro. Dimmi se ti piaccio adesso, scrivi pure adesso. Scrivi pure di noi come di un fenomeno che finisce presto. Troppo presto, troppo fresco per te, troppo lucido per te. Doppia H, la mia scienza, lo capisci il perché. Sono qui, resto qui, sta sicuro che non batti me. Se non conosci me, davvero sul sentiero. Ognuno col suo passo passa e niente ti può fermare. Con la scienza che hai in testa, con la scienza che hai in testa puoi distruggere. Con la scienza che hai in testa puoi costruire. Nessun limite puoi dare all'imparare. Per questo, solo per questo che adesso mi ritrovo qui. Masito fresco e colle del Fomento sfondano MC. Sfondo MC, sfondo MC. Me capisci zi, me capisci zi. Sfondo MC, sfondo MC. Convinti che l'hip hop si trovi su Yo MTV. No, no, un massiccio non agisce in base a regole che un esterno gli impartisce. Ma percepisce l'energia, la fa sua e poi spezza. Perché secondo me sta roba è e deve rimanere grezza. Tu guarda pure le figure su Vibe se vuoi uno spunto per vestirti. Sì, ma non aspettarti che possa spiegarti o darti ciò che io ho imparato sui palchi. Scaldando impianti, spaccando solchi, proiettili dal microfono come una mitragliatrice. Entro dentro al funk perché il funk mi benedice. Flippo strofe assassine supportate da basi imperiche. Stile più rime incastrata a dar vita a frasi storiche. Storie che racconto raccontano la mia storia, la mia vita. vita. Senza doppia H basta un beat come guida. Sfido l'ignoto, salto nel vuoto. Parto dal passato remoto fino al futuro più immediato. Danno se vai masito, la trinità del colle. Tanti applausi dai b-boys, quanti sguardi dalle loro donne. La crew dei bei pischelli, gente fresca. Vibrazioni giuste per la gente giusta. È nata contro e contro resta. Sì, ne capisci, fare di meglio mo è un attimo. Accendiamo il pubblico, calamo in tre, al summer panico. Fa terapia bene perché stiamo qua apposta. Posta in gioco alta, doppia H la mia risposta. Seguisce, seguisce, monta su che stiamo partendo. Sto con chi il funk l'ha assorbito, chi come me lo sta assorbendo. Giorno dopo giorno nel mio impianto, ogni concerto diventa un party se sto io sul palco. Per i massicci con il pop pesante, prendiamoci questa città e ancora oltre. Pronti a conquistare, invado tutta la tua frequenza. Spingo doppia H perché doppia H è la mia scienza. E quindi fu proprio l'atmosfera di Disfunzioni Musicali a ispirare Ice One per questo beat. Tra l'altro Ice One, ho dimenticato di dirlo, era la prima voce, il primo rap del brano. Andiamo avanti, andiamo avanti. No, torniamo indietro, perché torniamo indietro. La doppia H era del 98, torniamo al 96, perché per raccontare uno degli eventi che hanno caratterizzato la storia di Disfunzioni Musicali, non l'abbiamo detto, aggiungiamo un'altra informazione. Disfunzione Musicale appunto organizzava non dei veri e propri showcase, comunque degli incontri con degli artisti. Negli anni hanno suonato lì i Ramones nel 1989, Harry Rollins, Alice Cooper e mi sto scordando qualcuno tra i, vabbè, questo non c'entra nulla con gli eventi, ma comunque in negozio c'è stato Tarsal Moore dei Sonic Youth come semplice cliente acquirente. Comunque l'evento principale, quello che più si ricorda, quello che in parte ha causato anche problemi di ordine pubblico a San Lorenzo, visto che nel documentario, che non vado errato, si parla di circa 3.000 persone che sono accorsi appunto per assistere a che cosa? All'esibizione di CSI. Io purtroppo non c'ero, se non dico una scemenza, in quel caso c'erano solo Lindo Ferretti e Zamboni, non c'era tutto il gruppo. Comunque era appena uscito in Linea Gotica, quindi Linea Gotica esce nel febbraio del 96, probabilmente stavamo tra marzo e aprile di quell'anno, e quindi grande, grande confusione, grandi file per farsi firmare gli album. Sono i protagonisti di questa storia, cioè le persone che lì hanno lavorato, che raccontano che il titolo più venduto nella storia di Disfunzione Musicale è appunto in Linea Gotica, anzitutto perché era un grande gruppo ed è un grandissimo disco, ma certamente ha influito il fatto che in una sola occasione avranno venduto, immagino, centinaia di copie. Non potevamo non farvi sentire nulla, non abbiamo il bootleg, la registrazione di quell'esibizione, quindi ci ascoltiamo dal disco una delle ballate dell'album, Blu. Insieme a Lindo Ferretti abbiamo anche il piacere di ascoltare la voce di Ginevra di Marco. Confuse armonie affannate sconnesse. Intanto qui sulle note di blu Dario ci ha letto un biglietto che non potevamo non condividere. Prego. Sì, questo è uno di quei fogliettini che erano appesi lì nelle bacheche di disfunzioni, che è divertente perché intanto è scritto in inglese. E questo mi è arrivato dopo, purtroppo, quando già avevo fatto il documentario, quindi non l'ho potuto inserire, peccato. E dice, il titolo è Flautist Without Flute. Or after 15 August with a Peruvian six holes flute. Tradotto significa flautista senza flauto, oppure dopo il 15 agosto con un flauto peruviano a sei buchi. Però il bello è che non è che sembra il testo di Vasco Brondi, sembra un contesto pure. No, ma il bello è che non c'è scritto niente, cioè nel senso se lui cerca un gruppo, se cerca volessi, qualcuno, no, neanche il telefono, se... niente. Come te contatti? Vabbè. Vabbè, senti, invece un altro spettacolo di cui si parla anche nel tuo documentario è quello di Bruce Dickinson, avvenuto più o meno direi intorno al 95, lì nel 93 aveva lasciato i Maiden e nel 94 pubblica il secondo disco solista Balls to Picasso. All'interno del film e sempre Sante Calvaresi, tra l'altro, dice: io non ascoltavo il metal, non conoscevo particolarmente bene gli Iron Maiden, però mi ricordo mi impressionò tantissimo questo cantante, la versatilità di passare da un contesto come i media, insomma un contesto acustico fatto lì in negozio con la chitarra, quindi rimasi particolarmente sorpreso. E per noi, devo dire, è anche stata l'occasione per risentirci dopo 20 anni, una canzone che era è contenuta su quel disco, che c'era anche un video, no? Di Tears of the Dragon, se non sbaglio. E quindi la condividiamo con molto piacere. Bruce Dickinson, Tears of the Dragon. In the dark. Mamma mia, ragazzi, che ricordi. Un po' Unforgiven, l'arpeggetto finale. Vabbè, senti, noi ci siamo ritagliati un piccolo spazio anche per i nostri ricordi. So che è una cosa che non si fa, però l'abbiamo fatto. Vabbè, poi ricordi mica. Vabbè, ricordi legati al negozio, legati. Io direi, facciamo iniziare il nostro ospite, che visto che insomma. O no? Ti racconto un fatto. Sì. Allora, come dicevamo prima, io parlo di insomma fine anni 80 più o meno, e si partiva da varie zone di Roma, si prendevano tram e autobus, ci si vedeva il sabato pomeriggio da disfunzioni musicali, quindi con gli amici, insomma tutti che provavamo a suonare, e ci si salutava e dopodiché ci vediamo dopo. Ci si perdeva nel negozio, si stava due ore lì a farsi venire le dita nere, a scartabellare tutti i vari dischi per tirarne fuori magari uno che era quello, il disco che ti potevi permettere, e ci si rincontrava appunto poi dopo due ore, quando si doveva andare a pagare la cassa o dopo che si era pagato. E mi ricordo questo episodio dove c'erano un po' di persone. Io ricordo che mi chiesero: tu che hai preso? E io dissi: io ho preso Deep Purple, credo fosse Machine Head o qualcosa del genere. E dice: ah, ammazza, un classico. Mio fratello aveva preso gli Iron Maiden, sempre una bellissima copertina, e mio cugino invece un po' si vergognava a dire che lui aveva preso Master of Puppets dei Metallica. E quando ce lo disse, noi guardammo tutti quanti insomma un po' sorpresi. Ma che sei matto, no? Questi sono strani. Abbiamo detto, perché Master of Puppets era uscito da poco, e comunque quello a mio parere è stato il primo album dei Metallica che arrivò in Italia. Certo. Quindi sai, ti spendi questi soldi che c'hai per un disco che poi, se non ti piace, che fai? Allora, però comunque noi ci portiamo le cassette vuote, quindi ci scambiamo le cassette per poi rivederci una settimana dopo e darci queste cassette registrate. E la prima domanda fu: ma allora, ma come sono sti Metallica? E mio cugino disse: al primo ascolto è un po' difficile, però verso il settimo, ottavo ti cominciano a piacere. E bello era quello, cioè il fatto che tu comunque poi quel disco ormai te lo dovevi far piacere per forza, te lo sentivi e te lo risentivi. Vabbè, però ci ha visto lungo, dai. Ci ha visto bene, sì. E tu quindi hai scelto? Ma io ho scelto appunto il pezzo che apre Master of Puppets, perché spiega proprio l'ambiguità di quel gruppo, che ti sembra una cosa all'inizio, poi invece è un'altra. Quella chitarrina classica. Battery, Metallica. Metallica su Radio Onda Rossa, ah, questa puntata dedicata a disfunzioni musicali, dimmelo. Oggi torniamo a casa con i capelli lunghi proprio. Oggi torniamo a casa con le borchione proprio, assolutamente sì. Invece Dario, tu, io un po' ti ringrazio, però mi hai praticamente bruciato il mio ricordo, perché quando mi hai detto metto Battery, il mio anche era un ricordo legato al heavy metal, perché il sabato pomeriggio, quando si andava a comprare l'heavy metal usato, non si poteva vedere negli espositori come tutti gli altri, bisognava fare la fila perché veniva consegnato, perché c'era molta richiesta. Quindi il mio ricordo era legato soprattutto a quei momenti, però ho detto vabbè, non posso mettere due pezzi metal di fila, non lo possiamo fare. E quindi ho cercato di ricordarmi l'ultimo CD, ma non ce la posso fare. Però c'ho un ricordo che è legato anche a questa radio, perché una sera stavo in macchina aspettando una persona e c'era l'intervista a un cantante che non conoscevo, al leader di un gruppo che si chiamava Max Collini. Lui era il leader degli Offlaga Disco Pax, stavano intervistando su Radio Onda Rossa, passò subito dopo Robespierre. Io ricordo che il giorno successivo mi piacque talmente tanto che partì da casa spedito Disfunzioni Musicali e acquistai Socialismo Tascabile. È il 2005 quando uscì il disco, io lo acquistai nel 2006, e questa è Robespierre. Seconda elementare nel 1975. Il socialismo era come l'universo, in espansione. La maestra mi chiese di Massimiliano Robespierre. Mi risposi che i giacobini avevano ragione e che, terrore no, la rivoluzione francese era stata una cosa giusta. La maestra non ritenne di fare altre domande. Abbiamo anche molti ricordi di quel piccolo mondo antico Fogazzaro. L'astronave da 300 punti di Space Invaders, Enrico Berlinguer alla TV, le vittorie olimpiche di Alberto Guandoregna in nome della rivoluzione cubana, i sandinisti al potere in Nicaragua, il catechista che votava Pannella, gli amici del campetto passati dalle Marlboro direttamente all'eroina, alla faccia delle droghe leggere, i fumetti di Dora, la vampira porno e la Prince senza ritorno, il referendum sul divorzio e non capivamo perché, se vinceva il no il divorzio c'era e se vinceva il sì non c'era, Anna Ox a Sanremo conciata come una punk londinese, Ivan Allen, la prima sega, la vicina di casa, un travestito più noto come Lola, che mia madre chiamava Antonio con nostro sommo sbigottimento, Yarmila Kratosvilova, il Toblerone, qualcuno sa perché, una scritta degli Ultras della Reggiana dopo raid aeroamericano su Tripoli negli anni 80, diceva grazie Reagan, bombardaci Parma. E poi la nostra meravigliosa toponomastica, via Carlo Marx, via Ho Chi Minh, via Che Guevara, via Dolores Ibarruri, via Stalingrado, via Maresciallo Tito, piazza Lenin a Cavriago e la grande banca, non più locale, con sede in via Rivoluzione d'Ottobre. E infine il mio quartiere, dove il Partito Comunista prendeva il 74% e la Democrazia Cristiana il 6%. Vai. Dove? Non so che ho fatto, ho girato qualche manopola, mi sa che ti ho... No, ma è un po' stordito, ma okay. Va bene così. Bello. E tocca a te. Bellissimo tutto fondo, sì. Ascoltavo tutto. Beh, il ricordo mio è molto, è un ricordo meno, come dire, meno personale del vostro. Cioè, ti passo un Kleenex? No, non c'è bisogno, grazie. Meno personale perché, cioè, ho frequentato tante negozio, sono uno di quelle persone, come diceva Dario, che usciva con le dita nere, credo di essere tra i campioni del mondo in no, in assoluta disfunzione, pochi credo che erano veloci come me nel vedere tutto, insomma. Ma tu ti rendi conto, Dario? Ora io ho passato giornate in cui andavo, uscivo fuori, mangiavo e tornavo. Quindi, insomma, a casa la mamma chiamava disfunzioni, ma stai ancora là, Fabio, che è pronta la zuppa. No, comunque sì, ho attraversato varie fasi da ascoltatore abbastanza curioso e non fissato solamente ad un genere, però il periodo d'oro, quando magari avevo qualche euro in tasca in più e i gusti musicali ti erano un po' più formato, ecco, ricordami le disfunzioni musicali e legato alla scena, quella che possiamo sintetizzare con post rock, anche se poi molto di più, cioè tutto quello che arrivava nel cuore degli anni 90, dopo il grunge che arrivava da parti d'America che prima si ascoltavi poco, cioè da Louisville nel Kentucky e poi anche da Chicago in Illinois. Ho comprato una quantità enorme di album, quindi è stato faticoso scegliere. Pensavo ai Tortoise, pensavo ai Sian Cake, pensavo alle mille incarnazioni di Will Oldham, o comunque sono tantissimi gruppi che appartengono a questi generi, diciamo così. Però c'è un gruppo in particolare, quello che prima, che è sotto la mia voce, un gruppo che ha fatto un disco che è un capolavoro del genere, il disco si chiama Forget Points, loro sono i Juno 44, è un disco che ovviamente ho comprato da Disfunzioni. Ho scelto quello perché loro un po' fanno da cerniera tra queste due scene, tra Chicago e tra Louisville, e perché l'album è registrato da negli studi di un personaggio che noi, io e Ale, amiamo particolarmente, ne abbiamo parlato particolarmente qui e abbiamo dedicato una puntata, che è Steve Albini. Insomma, la storia è abbastanza semplice, è questa: tra i tanti brani possibili dei Juno 44, da Forget Points ovviamente, ho scelto Cut Your Face e ce l'ascoltiamo. Yes. Oh, basta un po' voi due. E dunque, sulle note di Juno 44 ci avviamo alla fine della nostra trasmissione. Siamo arrivati al 2007, l'anno di chiusura di Disfunzioni Musicali. E dunque sul suo blog Federico Guglielmi, il giornalista, riporta un'intervista che aveva realizzato proprio il giorno della chiusura. Dice: nel pomeriggio del 13 febbraio il negozio, con il suo soffitto a volte che lo rende così simile a un tempio, è in piena fase di smobilitazione ed è vuoto, con le sole eccezioni del sottoscritto, di Gianni e Domenico. Il terzo, Dino, è nel magazzino a sbrigare faccende, il quarto, Alberto, è impegnato altrove. Si preme il pulsante REC e sul nastro magnetico si imprimono parole che nessuno dei presenti avrebbe mai voluto pronunciare e ascoltare. It's the end of the world as we know it, per citare i REM. E quindi direi che questa intervista ci ha convinto che la chiusura migliore fosse questa. E noi stiamo un po' in ritardo, qui sarebbe da aprire tutto un discorso legato al cambiamento del mercato musicale che si attraversava in quegli anni e che ovviamente ha coinvolto, no, anche Disfunzioni. Sì. Non so se volete aggiungere qualcosa, i motivi sono tanti, no? Internet, il mercato, boh, non so. Sì, al di là dei motivi che qua non interessano, insomma, sui motivi per cui poi quell'impresa, quell'attività ha cessato di esistere, certamente era un periodo, già Napster già circolava da anni, c'erano Torrent, probabilmente era nato i Mule, c'erano i masterizzatori, come se non ci fosse un domani, c'erano i negozi che noleggiavano i CD, c'era il discorso sulla musica che vista si poteva come un prodotto ovunque, come una merce come le altre, quindi la tassazione certo incide, la catena di passaggi per arrivare al negozio, mentre con internet tutti poi l'abbiamo fatto, abbiamo ordinato almeno una volta qualcosa che ci è arrivato magari dalla Francia, dagli Stati Uniti o dall'Inghilterra in 3 giorni, quindi insomma una tempesta abbastanza perfetta poi ha portato che viviamo oggi, poi, no? Alla chiusura delle Disfunzioni, no, per stare su Disfunzioni, che poi non abbiamo detto, no, alcuni passaggi della Disfunzioni, gli anni 90 certamente gli anni in cui, no, Dario ha avuto il suo massimo fulgore, era il negozio, andava bene tra il 90, sempre a San Lorenzo, tra il 93 e il 2000 Disfunzioni apre un altro locale ancora in cui c'era l'usato, era andato da un'altra parte, c'erano i dischi rari, cioè tutta la parte che riguardava i collezionisti, sta a vedere Marruccini, no? Che oggi c'è una pizzeria, se non sbaglio, sì, un locale, sì, una pizzeria. Dovrebbe essere pizzeria, insomma. Però io, se posso dire la mia, certo, cioè no, grazie Dario, ciao, arrivederci. No, avendo avuto anch'io un'attività che è durata insomma parecchi anni, io credo che ci sta pure nella vita che a un certo punto uno decide anche di fare altre cose. Adesso, di nuovo, senza stare a sindacare su quali sono stati i motivi della chiusura, però è anche vero che dall'81 al 2007 io credo che Gianni, Dino, Domenico non fossero più le stesse persone che erano prima, quindi trovare comunque, sai, quell'entusiasmo, quelle motivazioni che non sono soltanto economiche per continuare a fare una cosa che hai fatto per così tanti anni, non è, certo, non è una cosa che io darei così per scontata. Quindi io sicuramente, qualunque siano state le motivazioni, ovviamente le rispetto, però appunto anche per me, quando ho deciso di, io non l'ho chiuso Videobuco, l'ho venduto, però quando ho deciso di lasciarlo era come se stavo vendendo un figlio, c'era una cosa, certo, ovviamente, che avevo tirato su io dal niente, però ci ho fatto 17 anni là dentro, cioè 17 anni sono tanti, e c'è anche poi a un certo punto, arriva il momento in cui vuoi fare altre cose. Il discorso de download e via dicendo, ovviamente questa è una cosa che ha influito in negativo sia sulle videoteche che sui negozi di dischi. Io sono dell'idea che se i dischi fossero costati, e ci metto anche al presente, costassero di meno, sì, tutti quanti saremmo più invogliati a comprarne di più. Qua si apre una cosa, io cercavo di essere brevissimo, non voglio fare nessuna polemica, però già dall'epoca in cui io ancora avevo Videobuco, l'edicolante aveva più film di me, un altro po'. C'è una disparità di IVA che viene caricata sui prodotti editoriali, quindi libri e riviste, rispetto invece a quella che è l'IVA piena, che è sui dischi e sui film, che è una disparità che qualcuno vorrei che mi spiegasse perché un libro deve essere considerato più culturale di un film o di un disco. Cioè, perché l'IVA sui libri praticamente è quasi uguale a zero e invece sui dischi e sui film è piena? Perché quello influisce ovviamente sul prezzo, finale. Che certo. paghiamo noi. Io non ti so rispondere. No, la domanda non era. Era una domanda retorica, l'ho capito, grazie mille. Vabbè, e quindi no, niente. Non fa, certamente. No, sì, è chiaro. Certamente è vero che la cultura è, diciamo, lo dicevo prima, insomma, è merci come le altre. Chiudiamo, sembra, ragazzi. È trattata come merci come le altre. Chiudiamo, ti scusate, vai. No, niente. No, perché è un po' tardi, se no ci fermano e ci fanno la multa. Allora, Dario, intanto grazie, andatevi a vedere. Grazie a voi. Io, guarda, approfitto, scusami, per salutare Sante, Marco, Fabrizio e Sandro Polpo, perché sono stati carinissimi a farsi intervistare da me e a raccontarmi i loro ricordi. Li ringrazio anche perché non tutti quelli che ho interpellato hanno voluto fare lo stesso, e quindi diciamo che sono particolarmente, nonostante rispetto chi non ha voluto ovviamente essere intervistato perché ci avrà i suoi buoni motivi, però ecco, ringrazio loro in particolare che hanno voluto fare questa testimonianza. Li ringraziamo anche noi, insomma, non li conosciamo, però li ringraziamo per aver aperto. Li conosciamo anche. Li conosciamo, esatto, però per aver aperto questo negozio meraviglioso a cui abbiamo dedicato questa puntata. Grazie a tutte e a tutti. Noi ci sentiamo martedì prossimo, sostenere sempre Radio Onda Rossa, e ci salutiamo con It's the End of the World and We Know It. Ciao a tutte, ciao a tutti. Prendo. Ciao. It's the end of the world.